La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. L'articolo 49 riguarda i partiti politici. I partiti politici rappresentano l'ingranaggio fondamentale per dar piena vita e pieno corpo allo sviluppo della democrazia. Infatti la democrazia, sappiamo, non è solo diretta, ma è soprattutto rappresentativa, e la partecipazione del singolo cittadino alla gestione dello Stato, alla gestione della Repubblica, non può che avvenire mediante i partiti. Ecco allora la disciplina costituzionale, che dà la piena libertà di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Ovviamente è molto forte e molto netta la cesura storica rispetto all'epoca precedente, in cui sostanzialmente si aveva un sistema a partito unico. Invece i partiti vengono garantiti nel loro totale pluralismo per concorrere con metodo democratico. È interessante notare che non c'è piena libertà di ricostituire qualsiasi partito in Costituzione, perché l'articolo 49 va letto assieme alla 12ª disposizione transitoria e finale, dove è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. È ovviamente un limite di natura ideologica ed è ovviamente una sanzione storica che rappresenta un'eccezione rispetto alla piena libertà pluralistica della rappresentatività politica. Ovviamente i partiti politici hanno trovato uno svolgimento molto differenziato negli anni di vita repubblicana. C'era una forte organizzazione sul territorio dei partiti politici a cui tutti i cittadini partecipavano anche con grande passione, ed era l'intermediazione diretta fra l'esigenza del singolo e la trasmissione della rappresentanza politica, in quanto il singolo voto non è certo sufficiente ad identificare gli interessi comuni da parte del singolo. Invece, con lo scandalo del 1992-93, cosiddetto scandalo di Mani Pulite, che ha coinvolto i partiti, da quel momento in poi possiamo assistere ad una profonda mutazione dei partiti, che hanno perso la loro organizzazione tradizionale di sezioni sul territorio e sono diventati sempre più organizzazioni elettorali, quindi organizzazioni per convogliare il consenso in caso delle elezioni. Va anche compreso con attenzione se c'è un diritto ad entrare in un partito oppure se il partito può rifiutare l'iscrizione. Ci sono stati casi applicativi anche interessanti. Questi casi hanno avuto anche un'applicazione giurisprudenziale, e la giurisprudenza ha ritenuto che i partiti, in quanto organizzazioni private, siano del tutto libere di rifiutare l'iscrizione di un soggetto comunque non gradito al partito stesso. Il riconoscimento costituzionale dei partiti passa anche attraverso l'esigenza che esista un finanziamento pubblico dei partiti pienamente trasparente e legittimo. Ecco allora che tutta la complessa problematica del finanziamento pubblico trova copertura nella Costituzione, ed è del tutto legittimo che esista un finanziamento pubblico, esplicato poi nelle modalità che la legge sceglierà e che negli anni è stata più volte modificata. Ultimo punto di interesse rispetto all'articolo 49 riguarda le leggi elettorali. Nell'articolo 49 non abbiamo un riferimento esplicito alla legislazione elettorale, ma tuttavia possiamo anche qui trarre un principio di neutralità, nel senso che tutti i partiti debbono concorrere con metodo democratico. Ecco allora che la legislazione elettorale deve comunque garantire la piena partecipazione. Soglie di sbarramento, premi di maggioranza sono sì legittimi, ma comunque nell'ambito di una non manifesta irragionevolezza, nel senso che non si può impedire la piena concorrenza dei partiti alla discussione e alla formazione della politica nazionale.